9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati qua in studio, Oscar Giannino, per questa puntata che verrà integralmente dedicata agli approfondimenti possibili, quelli possibili dopo le prime ore di questa tragedia di Viareggio, che ha colpito un convoglio merci che trasportava gas e la cui esplosione ha prodotto molte vittime. E vi aggiorneremo in diretta, io qui in studio a fianco a me Cristina Carpinelli, che ringrazio, che darà sempre un'occhiata agli aggiornamenti di agenzia. La prima nota emessa, quella ufficiale della Ferrovie dello Stato in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, ha già corretto un pochino il tiro rispetto alle prime ricostruzioni, che erano quelle naturalmente dovute a chi aveva ocularmente assistito all'incidente. E questa nota che cosa dice? Dice che gli elementi al momento a disposizione fanno presumere che il cedimento del carrello di uno dei primi carri cisterna del convoglio sia la causa più probabile di quanto è avvenuto. A causa di questo il carro sarebbe deragliato, trascinandone poi con sé altri quattro, e lo svio, cioè il deragliamento, avrebbe provocato la fuoriuscita del gas GPL contenuto nella cisterna, che sarebbe incendiato al di fuori di questa. E dunque, prosegue la nota ufficiale della Ferrovie dello Stato, non ci sarebbe stata l'esplosione del primo carro cisterna, che invece veniva addotta come motivo nelle prime ricostruzioni dell'incidente. Il controllo effettuato sui carri dai tecnici della verifica in partenza da Trecate, il convoglio era Trecate Gricignano, non aveva evidenziato alcuna anomalia. Questa è la prima nota emessa oramai già un paio d'ore fa dalle Ferrovie dello Stato. Io ricordo tutti che è già stata annunciata non solo l'indagine naturalmente della procura competente di Lucca, ma anche una commissione istituita dal Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteoli, che in viaggio all'estero ha comunicato di sospendere naturalmente il suo viaggio rispetto alla gravità della tragedia. Ecco, noi abbiamo in linea come primo ospite il professor Marco Ponti. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Ecco, il professor Ponti è uno dei massimi esperti, insomma, di economia dei trasporti italiani, e spesso con lui ci si trova a fare dibattiti in ordine di solito ad altro, cioè alla liberalizzazione del sistema e alla concorrenza e all'apertura del nostro sistema rispetto ad altri vettori nell'alta velocità e in altri segmenti del trasporto. Ma in realtà, professor Ponti, noi abbiamo bisogno da lei di alcuni approfondimenti in merito a un tema, cioè quello della sicurezza, degli investimenti per la sicurezza. Io ho già molti messaggi dei nostri ascoltatori sull'SMS, per esempio, che ne leggo alcuni. Uno dice: siamo a 3 incidenti in meno di un mese, uno in tunnel nei giorni delle elezioni, il deragliamento che ha bloccato mezza Italia pochi giorni fa, oggi stanotte purtroppo a Viareggio una cisterna di GPL. Ecco, professor Ponti, da quanto ci dicono i bilanci di Trenitalia, di RFI, insomma delle due holding, delle due divisioni delle Ferrovie dello Stato, che ricordo tutti offre servizi ma gestisce anche la rete infrastrutturale naturalmente, quello che ci dicono i conti economici, appunto, ci possono rassicurare in merito a quanto viene investito per la sicurezza degli impianti, della rete, delle verifiche di servizio, oppure no? Lei che dice? In termini comparati l'Italia da questo punto di vista sta meglio o sta peggio rispetto agli altri grandi paesi europei? I numeri, nonostante la tristezza e la drammaticità di questi incidenti, i numeri tendono a pendere in favore della ferrovia. Proverò a dirli: le ferrovie italiane sono tra quelle che spendono di più in sistemi di segnalamento e di sicurezza. Spendono una quantità di denaro molto molto rilevante in quello. Questo è il parere europeo generale. I numeri poi degli incidenti, nonostante questi due relativamente ravvicinati, sono di nuovo abbastanza favorevoli alle ferrovie, perché l'altro incidente grave è avvenuto 3 anni e mezzo fa sopra Bologna con 17 morti, ma il significato statistico degli incidenti rimane basso anche confrontato con altre ferrovie. Ora, questo non a prescindere ovviamente dalle cause specifiche che non dovranno essere accertate di questo incidente. L'aspetto che invece mi sembra, e per tornare al significato statistico di queste cose, pensiamo ai 219 morti dell'aereo precipitato nell'Atlantico, è un fatto ben più grave, ma di nuovo statisticamente gli incidenti aerei sono in diminuzione, e su un numero altissimo di eventi come i treni o i voli aerei un certo numero di incidenti è purtroppo tecnicamente inevitabile. Il problema è il loro andamento nel tempo e il loro confronto con altre realtà, e da questo punto di vista non sembra drammatica, nonostante questo episodio, la situazione delle ferrovie italiane rispetto a altre. Diverso invece il ragionamento sulle merci pericolose. Su questo incidente apre uno spazio di riflessione nuovo, importante, perché tutta la pressione finora è stata di spostare dalla strada alla ferrovia le merci pericolose, ma effettivamente la concentrazione in area urbana di 5 carri di GPL con queste conseguenze forse richiede anche un ripensamento alla situazione delle merci pericolose su ferrovia, non solo su strada. Professore, però da questo punto di vista le merci pericolose, se non le facciamo andare per ferrovia perché le stazioni insistono nella parte centrale degli aggregati urbani, e tuttavia anche per strada non è che restano fuori dagli aggregati urbani, o sbaglio? Certo, però è la concentrazione, quello che le dicevo, cioè un treno, questa volta sono stati 5 e se erano 10 i carri del GPL, il treno funziona perché porta tante carrozze, no, di merci, certo. 10 carrozze, 20 carrozze, e quindi la concentrazione di materiale esplosivo, cioè di materiale molto, molto pericoloso in queste quantità, lo rende intrinsecamente forse più pericoloso di un camion, che più di tanto un autobotte con rimorchio più di tanto non può portare, e generalmente se viaggi in autostrada, poi attraversa certo anche le zone abitate, però sulla concentrazione di merci pericolose in queste quantità dentro i centri urbani, forse anche per la ferrovia si richiede una... Professore, ma nel nostro ordinamento chi è in realtà l'ente che disciplina i quantitativi massimali di movimentazione delle diverse categorie di merci pericolose, esplosive, detonanti, gas nelle diverse forme fisiche, liquide, aeriforme, eccetera, eccetera? Chi è che stabilisce queste grandezze? Che cosa si può spostare, come e dove? Non mi risulta che ci siano delle restrizioni alla ferrovia, perché è considerata intrinsecamente più sicura. Fino a oggi c'era la presunzione che comunque la ferrovia era più sicura, quindi non mi risulta che ci siano vincoli, se non di tipo tecnico, sui moduli di stazione, alla dimensione del trasporto di merci pericolose in ferrovia. Questo non mi risulta, e proprio per questa ragione insisto a dire che forse questo incidente rende necessaria una riflessione anche sul versante ferroviario e non solo sul versante stradale. Ecco, su questo stesso tema sentiamo anche l'opinione di Giorgio Santilli, collega che da molti anni professionalmente in maniera impeccabile segue le tematiche del trasporto e quindi segue anche l'azienda, quindi Trenitalia, RFI, Ferrovie dello Stato. Giorgio Santilli, buongiorno. Buongiorno, ciao Oscar, buongiorno agli ascoltatori. Lei che dice, abbiamoci del tubo, siamo colleghi, ma lui che dice, il tema posto da Ponti su necessità di una riflessione aggiuntiva dopo tanti anni che diciamo che bisogna spostare il trasporto dalla gomma al ferro, è un tema che secondo te trova quale addentellato? Perché io in effetti alla domanda chi fissa i quantitativi per quali merci pericolosi non so dare una risposta, ammetto la mia ignoranza, non so quale sia la tua cognizione dell'arte, però mi sembra che questo tema posto al professor Ponti meriti un approfondimento. Beh, ovviamente ci sono una serie di normative sia europee sia molto di dettaglio ministeriali nazionali, diciamo così, che regolano questi quantitativi. Però se mi consenti farei una riflessione che in parte coincide con quella di Marco Ponti, nel senso che effettivamente questo incidente di oggi è un po' spiazzante rispetto alle nostre riflessioni tipiche, la realtà spesso ci spiazza rispetto alle nostre certezze, nel senso che per anni il dibattito è stato proprio quello che ricordava Marco Ponti, di una normativa che incentivasse in ogni modo il passaggio delle merci pericolose dalla gomma alla rotaia. Questa normativa, che peraltro non si è compiuta completamente, nel senso che poi una serie di incentivazioni che erano finalizzate a questo sono rimaste un po' sospese, incentivazioni che appunto portavano soprattutto a trasportare, a spostare le merci, diciamo, dal tir, dal camion al treno. Cioè per anni ci siamo detti rendiamo meno pericolose le merci pericolose facendole andare in ferrovia, e come faceva notare anche Ponti, questo continua ad avere un suo fondamento al di là del dato dell'incidente, che evidentemente ci coinvolge emotivamente, ma va visto anche nel suo dato statistico, che appunto la ferrovia comunque continua ad avere meno incidenti. Se mi consenti faccio anche una parentesi sull'attualità, ancora non è chiarissima la dinamica dell'incidente, anche le ferrovie non danno ancora ufficialmente né il nome dell'impresa proprietaria dei carri né diciamo così la dinamica con precisione. Qualche indiscrezione però io l'ho raccolta, non so se voi ne avete già dato notizia. Allora, anzitutto l'infrastruttura qui non sembra entrarci nulla, un po' come l'incidente del carro merci della settimana scorsa, cioè il problema riguarderebbe un cedimento strutturale di uno dei carri del treno. Di questi carri, da quello che mi risulta, 11 erano immatricolati presso le ferrovie tedesche, uno presso una società polacca. L'impresa diciamo responsabile del trasporto, non se ne sa ancora il nome, non è stato dato alle ferrovie, dovrebbe essere però un'impresa privata e straniera. Allora qui mi sorge il dubbio se non ci sia piuttosto un problema di certificazione, di manutenzione, soprattutto del materiale rotabile, cioè soprattutto dei carri, e non tanto dell'infrastruttura. Quindi aspetta un secondo per consentire a chi non è troppo addetto ai lavori, perché altrimenti ingeneriamo qualche equivoco. Bisogna approfondire qual è l'impresa a cui va ricondotta la movimentazione del gas, quindi un'impresa privata, e va capito con chiarezza il materiale rotabile, cioè il carrello del carro che ha ceduto, per capirci, perché questo dice la nota che abbiamo letto delle Ferrovie dello Stato, indica un carrello di un carro che ha ceduto e questo ha provocato lo sviamento, cioè il deragliamento del convoglio, e bisogna identificare questo carrello a quale gestore di trasporto merci italiano o europeo appartiene per identificare la responsabilità delle ispezioni tecniche su quel materiale rotabile, corretto? Certamente. Ecco, quindi ci sono questi due aspetti che naturalmente non implicano responsabilità o le implicano in che misura a quel punto del gestore italiano ex monopolista, diciamo così, fa girare materiale rotabile proveniente o in carico ad altri gestori europei senza verificarne in proprio in nessun modo l'affidabilità tecnica? No, è chiaro che una responsabilità di vigilanza esiste anche per il gestore italiano. È evidente che sulla rete ferroviaria circolano milioni e milioni di carri, quindi c'è una assicurazione a monte che il carro sia di qualità legittima, no? Che abbia tutte le carte in regola per viaggiare, e questo sta nella certificazione, però questo ci apre già un primo elemento, perché se questi carri erano immatricolati in parte in Germania, in parte in Polonia, già capiamo che qui c'è una dimensione sovranazionale che coinvolge sempre di più il trasporto ferroviario, soprattutto quello di merci. Esattamente, in realtà la globalizzazione, è di cui poi noi siamo abbastanza campioni nel difenderla, perché apre che le stesse tracce di infrastruttura a diversi gestori, e implica il fatto che il materiale rotabile che è in circolo appartiene a società di diversi paesi che hanno magari diversi standard, diverse possibilità anche di fare operazioni poi di reintegro tecnico e verifica tecnica dell'affidabilità di questo materiale. Abbiamo un ascoltatore, io vi ricordo il numero presso il quale chiamarci, 800 24 00 24. Abbiamo un ascoltatore, Alberto della provincia di Milano. Prego Alberto, buongiorno. Alberto da Tesio, buongiorno. Allora, sono un geometra, ho un'azienda che trasporta rifiuti, sono abilitato per le materie pericolose. Allora, velocissimamente chiariamo il discorso. Tutte le materie pericolose vengono regolate dalla normativa europea CE ADR dal 1957, è stata aggiornata negli anni, per cui è una materia molto molto molto trattata, con dei regolamenti rigorosi e validi in tutte le maniere, in tutte le nazioni che aderiscono al trattato dell'ADR. C'è il trasporto su gomma, il trasporto ferroviario, il trasporto aereo e il trasporto marittimo. E tutte sono regolamentate da regole ben precise, ferre. I conducenti hanno tutti un'identificazione con una patente speciale che viene rinnovata ogni 5 anni, che si chiama CFP, con specializzazioni. Le materie pericolose sono classificate in 9 punti, dalla classe 1 che sono gli esplosivi, alla 2 che sono i gas, continuando con le classi 3 che sono liquidi infiammabili, solidi infiammabili. Tutti riconosciamo, dai veicoli che trasportano il carburante, il gas, i vagoni ferroviari, quei pannelli arancioni 40x50 o 30x40 con dei numeri sopra. Ogni numero identifica una materia e la sua pericolosità. La parte alta viene chiamata numero Kembler e identifica il pericolo primario della materia. Ad esempio, quando vediamo la benzina, c'è un 33 in alto, vuol dire che è un prodotto molto infiammabile. Il numero che segue in basso identifica il prodotto, 1203 è la benzina, 1202. Benissimo, Alberto. Per cui, allora, per i camion noi abbiamo una distanza minima di 100 metri su un convoglio. Per ogni camion che trasporti gas, che trasporti carburante e tutto. Naturalmente nelle ferrovie questa distanza è molto... Assolutamente, è uno attaccato all'altro con vagoni, addirittura il doppio di volumetria confronto a quelli su strada. Lei faccia conto che io abito ad Esio e lì passa la linea ferroviaria per Chiasso. Ogni giorno passano migliaia di vagoni di GPL. Chiarissimo, Alberto, la devo interrompere perché lei ci ha dato alcune indicazioni da tecnico, diciamo, delle materie pericolose, la loro movimentazione, molto preziosi e molto utili. Io torno al punto che segnalato prima da Santilli, perché nella nota delle Ferrovie dello Stato c'è anche una prima indicazione, perché la prima carrozza, quella di questo convoglio merci di 14, quella sulla quale si appuntano i sospetti nella prima ricostruzione della dinamica dell'incidente di Viareggio, in effetti risulterebbe intestata a una compagnia polacca, mentre le successive 13 a Deutsche Bahn, cioè all'equivalente delle Ferrovie dello Stato, ma tedesche. Cristina, chiedo qualche aggiornamento delle agenzie, perché è da mezz'ora quasi che stiamo andando, e quindi sulle vittime o su qualcosa c'è qualche aggiornamento? Sì, intanto ci sarebbero almeno 4 persone disperse ancora tra le macerie delle 2 palazzine crollate in seguito a questa violenta esplosione che si è verificata questa notte attorno alla mezzanotte alla stazione di Viareggio. Questo è quanto hanno detto proprio poco fa, facendo il punto, i vigili del fuoco che stanno tuttora lavorando sulle macerie di una delle 2 palazzine crollata a metà in via Ponchielli. Poi c'è un'altra notizia sul bambino ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, un bambino di 2 anni e mezzo che è in condizioni molto gravi, ha riportato ustioni su vasta parte del corpo, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Lo ricordiamo, sono oltre 30, si parla di 35 feriti gravissimi, alcuni con il 90% di ustioni su tutto il corpo, quindi persone che stanno combattendo, insomma, tra la vita e la morte. E poi vi do un'altra nota: il presidente della Repubblica Napolitano, che è rimasto profondamente colpito dalla drammaticità dell'incidente alla stazione di Viareggio ed è in contatto diretto con il prefetto di Lucca per avere ragguagli sulla dinamica. Grazie Cristina Camporilli. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino torna a salutarvi in questa giornata un po' particolare, iniziata con obbligatoriamente, seguendo le vicende, le nuove notizie dopo la tragedia, perché queste sono oramai le dimensioni del suo bilancio ferroviario, avvenuta stanotte a Viareggio, e alle 13 vittime si aggiungono e ai molti feriti gravi si aggiungono ancora alcune persone disperse, perché le agenzie ci informano che i vigili del fuoco ipotizzano in almeno 4 il numero dei dispersi, perché si scava naturalmente nelle palazzine raggiunte dall'esplosione avvenuta che ha investito l'area urbana che è molto vicina allo scalo di Viareggio. Ricordo che lo scalo di Viareggio è importante perché praticamente interseca la direttrice tirrenica sulla Roma Torino rispetto a quella ligure, poi capotronco per Firenze e Garfagnana. Favignana, quindi è uno snodo molto delicato della rete italiana. È una rete che naturalmente, vista l'orografia del nostro paese, ha poche assi, poche direttrici di grande traffico, e questo è uno dei motivi fondamentali per i quali, quando avvengono incidenti, poi ci si blocca e si paralizza. Abbiamo ancora con noi Giorgio Santilli, che mi sembrava volesse aggiungere ancora qualcosa rispetto a questi primi elementi che abbiamo di ricostruzione e di ipotesi su dove addensare i nostri occhi e la ricerca di che cosa tecnicamente non ha funzionato. Sì, Oscar, abbiamo qualche elemento di novità. Ovviamente tutto è ancora abbastanza confuso, le cose stanno arrivando in diretta, però una cosa che ancora non era nota è il nome dell'impresa proprietaria del carro, che dovrebbe essere la GATX, con sede a Vienna. È una società internazionale che effettua trasporto di merci, soprattutto pericolose, capitale americano, è anche quotata a New York. Ha tre società che operano in Europa, in Austria, in Germania e in Polonia. Apparentemente, per quello che io ne so, è una società di tutto rispetto e di tutto rilievo, senza grosse difficoltà. La seconda notizia è che il carro, appunto, viene confermato il cedimento di una parte strutturale. Anche questa non è una notizia ancora ufficiale, è un'indiscrezione però direi fondata. Era regolare dal punto di vista delle revisioni. Qui ci ricolleghiamo un po' al ragionamento che facevamo prima: chi controlla? È evidente che un carro è un po' come un'automobile: se ha la revisione a posto, poi nel momento in cui viene fermata dal vigile urbano o dal poliziotto, è tutto in regola. Sembra che questo carro, diciamo che questi carri fossero tutti in regola, almeno questo, ripeto, dalle prime indiscrezioni che riesco a raccogliere anche dalle ferrovie che poi fanno queste. Qui Cristina Campolici ci ricorda un particolare in ordine al primo elemento che è apparso stanotte sulla velocità a cui procedeva questo convoglio, che naturalmente è anche questo un elemento che tecnicamente ha la sua rilevanza, vero Cristina? Sì, ci raccontava un collega dell'ANSA che è sul posto che uno dei due macchinisti ha dichiarato, poi ovviamente tutto da verificare, che il treno stesse andando a 90 km su un tratto in cui il limite era 100 km orari. Quindi era una velocità consentita ampiamente, ma insomma era una velocità abbastanza sostenuta, il che naturalmente potrebbe implicare delle sollecitazioni al carrello di questo carro, il primo carro di questo convoglio, su cui si ipotizzano i primi dubbi in ordine ai cedimenti che hanno poi provocato il deragliamento, di cui le scintille, di cui poi le esplosioni del gas trasportato. Ecco, abbiamo alcuni ascoltatori collegati. Io ricordo sempre il numero 800 24 00 24. Abbiamo proprio da Viareggio Renzo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda in riferimento a un fatto che è successo circa poche settimane fa sulla tratta ferroviaria da Viareggio a Pisa, esattamente nel tratto che fa da Torre del Lago a San Rossore, dove un treno merci ha avuto un danno analogo a quello che sento accennare nell'ipotesi della catastrofe, e cioè il cedimento di un carro che praticamente ha fatto sì che un vagone si intraversasse e facesse gravissimi danni sulla tratta della linea ferroviaria da Torre del Lago a San Rossore. E la fortuna che era un treno merci e non ha incrociato un passeggeri, se no veniva fuori un'altra catastrofe. E allora a questo punto mi viene una domanda: indipendentemente dalla quantità, che secondo me è un discorso, consentitemi l'aggettivo sciocco, perché i treni sono fatte apposta per portare grandi quantità, se si dà la sicurezza ci devono essere. Però ecco, io lavorerei più su un fatto di sicurezza di elettronica, tipo sensori, perché logicamente il macchinista non può sapere se la quinta, la sesta macchina gli cede un assale e ha un vagone di traverso e cammina con un vagone di traverso. Però con l'elettronica queste cose qui si potrebbero risolvere. Grazie a Renzo da Viareggio. Naturalmente, attenzione Renzo, noi abbiamo fatto una riflessione sul fatto che i convogli ferroviari, e il professor Ponti e poi Santilli ci hanno fatto riflettere insieme sul fatto che i convogli ferroviari inevitabilmente rappresentano concentrazioni di merci più pericolose, proprio per quello che diceva lei. Siamo abituati da anni a chiedere il trasporto dalla gomma al ferro. La conseguenza è che le merci più pericolose si concentrano di più, non è che fosse la scoperta dell'acqua calda. Naturalmente quando avvengono incidenti però in aree urbane concentrate intorno a stazioni, questa concentrazione implica un coefficiente di pericolosità maggiore. C'è Donato da Bologna in linea, che ci porta la sua esperienza di chi ha operato proprio in questo settore. Buongiorno Donato, ci dica. Sì, buongiorno. Senta, io ho operato 16 anni nel trasporto ferroviario, proprio quello che trasporta le merci che dalla strada vanno appunto sul ferro. E volevo fare alcune precisazioni e permettermi magari di dare la mia opinione. Allora, non ci sono attualmente normative che precludono, diciamo, la concentrazione di merci pericolose su un treno. Quindi un treno al giorno d'oggi può trasportare anche circa 27 vagoni contenenti container di merci pericolose. La Ferrovia Italiana, in effetti, fino a qualche anno fa, era molto severa su questo, perché non permetteva che sul medesimo carro venissero accoppiati due container magari di prodotti di un certo tipo, che in caso di incidente, se fossero venuti a contatto, avrebbero potuto causare dei grandi tipo materiali comburenti e combustibili. Ma questo, attenzione, lei ne ha parlato all'imperfetto, ma credo che questo tipo di norme precauzionali ci siano ancora e siano prescrittivamente rispettate da parte di Trenitalia, o no? No, non ci sono, nel senso che se noi abbiamo una composizione che è lunga circa di 27 vagoni, noi possiamo caricare tutti questi 27 vagoni con materie pericolose. Sì, ma in ordine al mix di merci pericolose, per esempio quelle detonanti eccetera eccetera, io sapevo che le norme erano tuttora in vigore ed erano abbastanza prescrittive. Perché mi è capitato più tardi di 2 anni fa di parlare ufficialmente, insomma, con i responsabili delle Ferrovie dello Stato, che mi hanno su questo inondato di precisazioni tecniche. Solamente su alcune classi di pericolo, quindi appunto gli esplosivi. Quello che poi volevo dire è che ogni convoglio viene, allora si parlava di carri immatricolati in varie nazioni, questa è assolutamente la norma, che all'interno di un medesimo paese, quindi in questo caso l'Italia, ci sia una circolazione, un mix di circolazione di vagoni appartenenti ad altre società, quindi anche società estere. Ovviamente sono vagoni che hanno dei requisiti per viaggiare a livello internazionale. Secondo, quello che volevo dire è che ogni convoglio, prima di partire, viene sempre verificato da un controllore, da un verificatore appunto, il quale vagone per vagone, asse per asse, lo controlla. Ovviamente la perfezione non esiste. Se proprio volessimo, secondo me, trovare qualcosa che non quadra, bisognerebbe cercarla nella liberalizzazione. Ecco, io su questo la fermo, perché naturalmente la mia opinione è che la liberalizzazione non c'entra, le verifiche in ordine alla sicurezza del materiale rotabile, come la sicurezza dell'infrastruttura. Però, siccome so che questo è un tema che classicamente viene utilizzato contro la liberalizzazione, con la pretesa, cioè, che il monopolista sia titolare della sicurezza molto meglio del concorrente, io di questo non sono affatto convinto. Apposta però, siccome prevedevo l'emergere inevitabile di questo tema, abbiamo con noi collegato Andrea Giuricin, che è un economista che segue con particolare predilezione le tematiche della liberalizzazione degli utili. Me lo sono tenuto pronto perché sapevo che si arrivava a questo tema. Ecco, Giuricin, le chiederei un secondo di farci riflettere. Quanto investe abbastanza in termini comparati il nostro monopolista in termini di sicurezza, da quello che lei vede dai suoi bilanci? C'entra la liberalizzazione con la sicurezza dell'infrastruttura del materiale rotabile? Prego, Giuricin. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, a mio parere, non c'entra la liberalizzazione con il problema della sicurezza. Questo è un falso problema. È importante garantire la sicurezza sia che esista un solo operatore che viaggia sui binari, sia che esistano più operatori che viaggiano sui binari. Quindi a questo punto la liberalizzazione non c'entra con il problema sicurezza. Per quanto riguarda gli investimenti in Italia sono abbastanza elevati per quanto riguarda la sicurezza. Questa tragedia nazionale è gravissima, però purtroppo questi errori che sono tragici, ma rientrano in una certa casistica che accadono in tutto il mondo. Infatti anche Ponti all'inizio ci diceva che in realtà dal punto di vista di statistiche comparate noi non andiamo così male. Senta Giulicin, le chiedo una cosa che con l'incidente di questa notte non c'entra, ma per far capire meglio a chi ci ascolta. Noi apparteniamo a una scuola, siamo un po' critici rispetto alle pretese dell'ex monopolista italiano, che ci ricorda che il suo bilancio è inattivo oramai, eccetera eccetera. Ci può ricordare in una manciata di secondi in realtà quanto ci costa l'anno le Ferrovie dello Stato? Può essere inattivo, ma con più di 4 miliardi di euro di sussidi l'anno, cioè che ogni volta gli cittadini devono ripianare il bilancio di Ferrovie dello Stato, non si può dire che sia inattivo. Il problema è che da noi in Italia si danno tantissimi soldi al monopolista pubblico e molte volte questi soldi vengono dati senza alcuna gara, e quindi c'è un problema oltretutto di concorrenza, perché questi aiuti tendono a distorcere la concorrenza e far sì che non ci siano operatori più efficienti che possono operare in concorrenza con Trenitalia. Io ho l'obbligo anche di chiederle una battuta, anche questa in pochi secondi, però sul bilancio critico che altri paesi che si erano spinti più avanti sulla liberalizzazione e sulla privatizzazione, l'esempio classico è il Regno Unito, hanno fatto della loro esperienza. Come siamo messi da questo punto di vista in Europa? C'è chi è tornato indietro, si è pentito? Allora, la Gran Bretagna ha avuto dei problemi all'inizio con la privatizzazione non solo delle compagnie ferroviarie, cioè quelle che viaggiano sui binari, ma anche della rete. È tornata indietro a fine anni 90 a causa proprio di un grave incidente ferroviario sulla privatizzazione della rete. Ad oggi però in Gran Bretagna ci sono tantissimi operatori che operano su questa rete. La concorrenza è fortissima, i sussidi pubblici sono circa 1,5 miliardi di euro contro i più di 4 miliardi che vengono dati in Italia e gli 11 miliardi che vengono dati in Francia. Ed esiste una concorrenza che è molto benefica sia per il consumatore, ma anche dal punto di vista della sicurezza ferroviaria, perché ad oggi, negli ultimi 4 anni, secondo statistiche Eurostat, il trasporto ferroviario più sicuro è quello inglese. Grazie Andrea Giulicin. Aggiornamenti delle agenzie, Cristina. Sì, intanto vi riferiamo che ci sono 13 vittime per questa esplosione, e però ci sono altre 4 persone disperse che vengono ancora cercate dai vigili del fuoco. Tra le vittime c'è un bambino, invece c'è un altro bambino di 2 anni e mezzo ricoverato al Meyer di Firenze, che sta combattendo insomma tra la vita e la morte. Ci sono 35 persone ferite gravemente, alcune nel 90%, ustionate nel 90% del corpo. 3.000 persone evacuate, perché è stata un'esplosione talmente violenta che ha letteralmente fatto crollare 2 palazzine e colpito altri tre edifici. Quindi 3.000 persone evacuate che non possono ritornare a casa. Ci sono 13 vagoni carichi di GPL tuttora nella stazione di Viareggio. Ovviamente la stazione è stata messa in sicurezza e adesso c'è un'unità di crisi che sta lavorando. Il ministro delle infrastrutture Matteoli, che sta tornando in Italia dal Venezuela, nel frattempo ha già nominato una commissione d'inchiesta per far chiarezza su quanto avvenuto. Abbiamo anche riferito del fatto che c'è l'ipotesi che il treno viaggiasse ad alta velocità, 90 km orari, il limite era 100, questo quanto riferito dai macchinisti soccorsi. 30 secondi, abbiamo Alessandro da Milano, si occupa di sicurezza del trasporto. Prego Alessandro. No, perdono, ci siamo fraintesi, io non mi occupo di sicurezza del trasporto. Io lavoro praticamente, ci tengo molto alla sicurezza, lavoro nel trasporto. Ah, benissimo. Tra l'altro mi sto dedicando alla distribuzione di alimentari, perché davvero per quanto riguarda le merci, oggi come oggi, per abbattere i costi stiamo trascurando la sicurezza, anche se ne cantiamo tanto, tutti parlano di sicurezza, ma alla fine per abbattere questi costi trascuriamo il personale ai controlli, diminuiamo il personale, stocchiamo la merce dove non va stoccata e facciamo dei trasporti alquanto anche ferroviario, per dire magari con dei pesi superiori a quelli dichiarati sulla documentazione. Grazie. Alessandro, naturalmente questo non è molto, mi tocca dire, il momento per accuse così generali, però certo c'è un problema serio. E il miagolio del gatto è veramente un po' arrabbiato oggi, ed è arrabbiato perché capiti che si concentri in poche ore diverse tragedie nel trasporto. Oltre a questa che colpisce l'Italia, c'è un altro Airbus di una linea yemenita che stanotte è precipitato con centinaia di vittime. Insomma, questi eventi corrono il rischio di farci commettere quello che si chiama un classico errore statistico da percezione ravvicinata. Ci danno l'idea che questi segmenti del traffico siano molto rischiosi perché concentrano eventi che producono vittime in tragedie che ci colpiscono molto. In realtà questi eventi dal punto di vista statistico vanno distesi in una casistica comparata rispetto alla quale noi non siamo attenti alla quantità di vittime del banale trasporto su gomma quotidiano nelle nostre strade, autostrade eccetera eccetera, e quindi questo comporta che noi poi ravvisiamo come più pericolosi segmenti del trasporto che in realtà lo sono statisticamente molto meno, come appunto la ferrovia e come soprattutto il trasporto aereo. Detto questo, noi abbiamo, siamo ancora in collegamento con Andrea Giuricin e la pregherei un secondo di farci capire meglio: se consideriamo lo stato attuale dell'Italia rispetto a quello degli altri grandi paesi dell'Europa continentale nel segmento che è quello nel quale è avvenuto l'incidente di questa notte, cioè il trasporto delle merci, ecco, l'apertura del nostro mercato interno, quello italiano, nel trasporto delle merci da parte di operatori diversi da quello dell'ex monopolista rispetto a quello degli altri paesi dell'Europa continentale, siamo in un paese più aperto da questo punto di vista o più chiuso ancora? Allora, rispetto agli altri paesi dell'Europa continentale, noi siamo un po' più aperti. Allora, l'Inghilterra è un caso a base dove c'è molta più concorrenza, la Svezia è un altro caso dove c'è ancora molta più concorrenza, però rispetto alla Francia l'Italia ha più liberalizzazione rispetto alla stessa Francia. Quindi nel settore merci c'è una certa liberalizzazione, non è... Anzi, io la devo interrompere per ricordare che per esempio l'amministratore delegato del Ferrovie dello Stato fa notare con una certa polemica crescente nell'ultimo anno e mezzo a questa parte che nel nord Italia, cioè nel segmento nel quale naturalmente il trasporto merci è quello che ha più valore aggiunto e che interessa di più anche i grandi concorrenti monopolisti degli altri paesi interessati a venire a esercire questo traffico in Italia, Deutsche Bahn e i francesi, e accusa, diciamo, gli attori economici del nord di essere un po' troppo sensibili al fascino esercitato dagli altri monopolisti europei che hanno iniziato a strappare segmenti di traffico sempre più rilevanti a Ferrovie dello Stato. Io ricordo che nel nostro paese è possibile, ovviamente, per esempio, che le diverse autorità portuali esercitano in proprio traffico e tracce ferroviarie con materiale rotabile che non è detto che si procurino dal monopolista italiano, ma possono farlo tramite materiale svizzero, come capita per esempio al porto di Savona e così via. Da questo punto di vista quindi stiamo meglio. Giuricin, le chiedo ancora questo: se stiamo meglio e siamo più aperti, questo significa anche più rischio del materiale rotabile di compagnie diverse che è in circolo sulla nostra infrastruttura? Beh, a mio parere no, i controlli dovrebbero esserci sia se esiste solo una compagnia sia se ne esistono più compagnie, come succede nel trasporto aereo, quindi dire che il rischio aumenti, a dire vero, aumenta il rischio in funzione, cioè il rischio in percentuale rimane sempre solito, però se viaggiano più treni chiaramente ci saranno più incidenti per una questione statistica, però diciamo, la sicurezza deve rimanere tale indipendentemente se il mercato è aperto o chiuso. Naturalmente questo dipende da come vengono effettuate poi le verifiche, che sono invece queste sì a carico di... Esattamente. Ecco, allora, quando noi abbiamo parlato, abbiamo sentito prima anche Santilli che ci ricordava come c'è poi un obbligo di verifica che è sempre a carico, le ispezioni tecniche sul materiale rotabile si fanno prima che partano i convogli, però io ritengo che da questo punto di vista lo stato dell'arte attraverso cui si fa queste verifiche è ancora abbastanza considerevolmente arretrato, cioè non si tratta di verifiche elettroniche, il materiale rotabile che è in circolo sulla nostra infrastruttura e anche ancora oggi la nostra infrastruttura è assai poco aperto all'utilizzo di tecnologie elettroniche. Le tecnologie elettroniche si usano oggi sulla linea per i segnali di sicurezza sulla linea ai convogli, ma non sono in grado di dare e certificare lo stato di affidabilità tecnica del materiale rotabile. Questa è, e del resto il parco rotabile si ammorta in moltissimi anni, lo dico per chi ci ascolta, e quindi è un investimento la cui durata nel tempo è molto lunga, e quindi questo fa anche capire perché le tecniche, le tecnologie con cui il materiale rotabile è realizzato sono oramai tecnologie di 30, 40, 50, 60 anni fa. È corretto, Giuricin? Sì, esattamente. Il problema è che il materiale rotabile è molto molto vecchio. Questo questo è il problema principale. Se ci fossero delle verifiche continue più precise, probabilmente da parte di RFI o comunque dell'agenzia dedicata appunto alla sicurezza ferroviaria, probabilmente ci potrebbero essere meno incidenti. Bisogna però ricordare che il nostro trasporto ferroviario è relativamente sicuro, non è giusto attaccare direttamente RFI o Ferrovie dello Stato quando in realtà bisogna andare a vedere tutti i numeri. La interrompo, Giulicin, perché Cristina Carpinelli c'ha un aggiornamento proprio sull'identificazione di questo materiale su cui si presume sia avvenuto l'incidente. Sì, tra l'altro un'agenzia che conferma quanto detto all'interno di questa trasmissione, e cioè che apparterebbe alla società internazionale GATX con sede europea a Vienna, la cisterna da cui è fuoriuscito il gas che ha innescato l'esplosione a Viareggio. Secondo quanto sta riportando appunto l'ANSA, a provocare il deragliamento è stato il primo carro merci, quello quindi subito dietro la locomotiva, che è un carro immatricolato dalle ferrovie polacche, ma di proprietà appunto di questa GATX. Il vagone avrebbe subito un cedimento strutturale e quindi si sarebbe rotto un asse, ed è proprio la società con sede a Vienna, questo quanto ci sta riportando l'agenzia ANSA, che dovrebbe assicurare la revisione di tutti questi elementi strutturali. Quindi il treno, poi ecco, questa è un'altra conferma quanto abbiamo detto nel corso di questa mattinata, viaggiava 90 km orari ed era una velocità regolare per quel tratto di ferrovia. Grazie Cristina, abbiamo collegato con noi un ascoltatore, Luciano D'Alessandria, credo che sia un ferroviere, prego Luciano. Sì, buongiorno, io sono ferroviere e mi occupo proprio di manutenzione ai veicoli viaggiatori. Quindi... Corregga tutte le sciocchezze che posso aver detto, prego. No, no, per carità, non mi permetto, non sono così presuntuoso. E niente, oltretutto mi occupo anche di sicurezza perché sono rappresentante di lavoratori per la sicurezza in effetti, e giro, mi capita di girare parecchie officine di manutenzione sia del Piemonte che di altre regioni. E come siamo messi? No, volevo dire che il problema della liberalizzazione secondo me incide molto, perché mi è capitato molte volte di verificare, soprattutto nella mia officina che vedo quotidianamente, ma anche nelle altre, come gli appalti, i subappalti che vengono purtroppo estesi in questi ultimi anni a ditte esterne siano di bassissima qualità, non solo per gli operatori che operano, quindi il più delle volte stranieri, ma non per questo, voglio dire, non è questo... Non vuole fare lo sciovinista, insomma, ecco. No, però in effetti sono poco preparati perché... poca tecnica, poca esperienza, voglio dire, quindi si lavora con una bassissima attenzione alla sicurezza sia personale che anche del lavoro. Quindi io su questa cosa qui della liberalizzazione non sarei in accordo con lei quando diceva che... Ma mi perdoni, per fare capire a chi ascolta, se il materiale non è affidabile, quello che appartiene, ecco, oppure le procedure... Che non è affidabile il materiale, è, voglio dire, le lavorazioni affidate a terzi che non siano officine delle ferrovie dello Stato, ce ne sono tantissime in Italia, certo. È molto specializzate, perché io lavoro lì da 30 anni, certo. Quindi posso testimoniare che le lavorazioni vengono fatte con delle procedure che sono, non dico infallibili, ma molto attente. Ci sono una serie di lavorazioni che sono proprio standardizzate, quindi... Lei dice la qualità di questi lavori non è fatta bene, ma se non è fatta bene, poi in realtà voi non date l'ok perché questo materiale gira, il materiale non gira, è questo che non capisco. Quindi... Il problema è un po' più complicato, perché lei sa meglio di me che quando si lavora con delle ditte esterne, con delle ditte private, il loro interesse è quello di fare più lavorazione possibile per guadagnare di più. Grazie questo molte, perché ahimè io non le voglio togliere la parola, perché ho capito, e come si vede io sono un liberalizzatore, ma il parere di chi è contrario dovrà sempre essere aperto, e questi microfoni, il confronto è apertissimo. Comunque dobbiamo tornare a una sintesi di questo incidente che accompagnerà comunque tutte le edizioni e gli aggiornamenti inevitabilmente di Radio 24 oggi. Per il momento 13 vittime, ma ancora 4 almeno le vittime ipotetiche, cioè disperse, di cui non ci sono tracce, quasi 1000 gli evacuati, una città colpita molto duramente, la protezione civile, le misericordie, la Croce Rossa, tutti mobilitati per questo incidente a cui abbiamo dedicato questa puntata di oggi, un po' stravolgendo le nostre scelte, ma è obbligato quando si fa questo mestiere. Quindi io vi do appuntamento a domani alle 9 in punto, la versione di Oscar, e ringrazio in regia Giorgio Matè, il mio braccio destra, cioè Gloria Guerrera e Laura Faggin, e in studio Cristina Carpinelli, che ci ha aiutato a seguire gli aggiornamenti. La linea al giornale radio.